testa china sul mio smart, sul mio smartphone. Mi autoscatto in bagno con l'amica dallo smartphone. Carico le foto e poi mi taggo con lo smartphone. Tu cerchi il mio sguardo ma io guardo solo il mio smartphone. Sembra storta dal tuo iPhone, gatta morta emoticon. Stacca stappa il mue shandon. Vieni sul futon. Sono Masunaga, se il tuo raga chiama stacca la chiamata, tu mi sai di maga. Scaricalo tipo suoneria, modalità aereo, voliamo via. Sembra sorta dal tuo smartphone, sulla smart non senti il clacson. Non ti curi se c'ho il condo, tu che accetti tutti random. Controlla lo spam, taggami con Shazam, dice selfie, stai sotto relax. Gli occhi fissi sullo schermo dell'Unia, cazzo zia, mi succhi tutta la batteria. A testa china sul mio smart, sul mio smartphone. Mi autoscatto in bagno con l'amica dallo smartphone. Carico le foto e poi mi taggo con lo smartphone. Tu cerchi il mio sguardo ma io guardo solo il mio smartphone. A testa china sul mio smart, sul mio smartphone. Mi autoscatto in bagno con l'amica dallo smartphone. Carico le foto e poi mi taggo con lo smartphone. Tu cerchi il mio sguardo ma io guardo solo il mio smartphone. Solo il mio smartphone. Ma io guardo il mio smartphone. In giro tutti androidi, in fissa per Android. Il tempo che buttate, spruzzo facebookate. Ti noto, tu capochino, T9, cambi sempre cover. Tu touch screen, la tocco tutta, tu twitta, tu Instagram, io Instagram, minchia. Sei smilza in pizzu face, una spilza di mi piace. Chi ti like è perché vorrebbe lascialo squillare. Verità veloci sopra la tastiera, che si fa stasera senza l'iPhone sclera. Aspetta la notifica, aggiornami là, poi verifica il tuo ultimo accesso a WhatsApp. Sempre attaccata a quel telefonino, smartphone. Vita in simbiosi col telefonino, smartphone. Molla il telefonino, molla il trattatino, molla il telefonino, molla il telefonino. A testa china sul mio smart, sul mio smartphone. Mi autoscatto in bagno con l'amica dallo smartphone. Carico le foto e poi mi taggo con lo smartphone. Tu cerchi il mio sguardo ma io guardo solo il mio smartphone. A testa china sul mio smart, sul mio smartphone. Mi autoscatto in bagno con l'amica dallo smartphone. Carico le foto e poi mi taggo con lo smartphone. Tu cerchi il mio sguardo ma io guardo solo il mio smartphone. Smartphone. Smartphone. Smartphone. Solo il mio smartphone.